versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo giovedì 12 di giugno, sono le 16.37 primi, siamo in diretta di studio di Radio 24 di Milano. Voglio darvi subito il tema del giorno. No, oggi non parliamo dei 13 senatori autosospesi del PD in forma di solidarietà con Corradino Mineo che dissente dalle riforme istituzionali. Il mio unico commento al volo è che quando si pasticcia troppo sui testi della riforma del Senato del titolo quinto, di cui ancora noi non abbiamo grande evidenza, secondo me anche poi i conservatori che vogliono cambiare poco o niente, neoproporzionalisti e così via, diventano degli eroi del libero pensiero, perché effettivamente per il PD un problema c'è di fronte al fatto che vengano Mineo venga sollevato come componente di commissione. È vero che poi si vota in aula, però insomma no, non parliamo di questo, non parliamo degli altri sviluppi sul fronte delle indagini che pure ci sono. Il sindaco di Venezia Orsoni gli sono stati revocati disciplinari perché di fronte ai magistrati non solo ha, per così dire, cambiato versione, ha secondato la richiesta dei magistrati dicendo che all'inizio aveva detto che non aveva preso niente, invece ai magistrati ha consegnato una elaborata ricostruzione per la quale sono stati i vertici del PD Veneto a convincerlo a prendere i soldi per finanziare la campagna elettorale, e per questo ha patteggiato 4 mesi. Non parliamo degli scandali della finanza con il vicecomandante generale e così via, ma torniamo invece a un punto di fondo del nostro paese, e cioè le tasse e la spesa. Le tasse soprattutto, perché senza prendersela troppo con Renzi che è appena arrivato, però ogni tanto fa bene ricordare i numeri con cui siamo alle prese, perché i numeri sono cambiati poco o niente e sono poco allegri. L'ultimo esempio che vi faccio è che nel testo di riforma della pubblica amministrazione che è promesso al Consiglio dei Ministri del 12 di venerdì, non sappiamo se verrà emesso un provvedimento o se sarà ancora un annuncio, però detto questo nelle bozze gira per esempio a proposito di una misura taglia spese, tra le tante annunciate c'è quella dell'unificazione del pubblico registro automobilistico all'ACI, che era una cosa giusta, c'erano 3 competenze sovrapposte tra ACI, province e così via, quindi uno dice razionalizzano bene un risparmio di costo e al contempo però la stessa norma dice che ci aumentano la tassa sul bollo dell'auto del 12%, quando già sono 23 le imposte varie e diverse che gravano sul settore automobilistico, 23, allora un aumento del 12% se fate una razionalizzazione, ma questo è solo l'ultimo esempio, quindi diteci telefonando che cosa vi aspettate. Vi aspettate davvero sgravi dopo gli 80 euro? Le cifre del DEF, del documento economico finanziario presentato da questo governo, modificando, sia pur non di troppo, quello ereditato da Letta, dicono in realtà che di spazi per altri sgravi non è che ce ne siano molti. Anzi, io parto dal ricordarvi una cifra e poi vado subito a presentare il nostro ospite, perché ogni anno facciamo almeno una trasmissione con lui, perché lui ogni anno rimette in ordine, da osservatore tecnico, da economista, da professore, i numeri dei DEF e puntualmente li rispiega e spiega quello che non vi viene detto dai DEF e dice così noi non andiamo avanti. Però prima di arrivare a presentarvelo tra pochissimo, ricordatevi che nel DEF del governo Renzi il totale delle entrate pubbliche, che nel 2013 è stato di 752 miliardi di fronte a 799 miliardi di spesa pubblica totale, ecco, il totale delle entrate pubbliche passa da 752 miliardi del 2013 nel 2017 alla bellezza di 823 miliardi e continua a salire di anno in anno. Andiamo a 767 previsti quest'anno, a 785 nel 2015, a 803 nel 2016, a 823 nel 2017 e persino nel 2018 all'846. La spesa pubblica dai 799 miliardi al 2013 aumenta nel 2014 a 809, nel 2015 a 818, nel 2016 a 829, nel 2017 a 838. Quindi sale anch'essa. Certo, non sale con la stessa intensità con cui sale la base delle entrate totali, che era a un livello inferiore. Quindi le entrate continuano a essere la parte preminente di raddrizzamento della finanza pubblica, sia pur non raggiungendo l'azzeramento del deficit. Sapete che il governo ha chiesto e ottenuto dall'Unione Europea la dilazione di un anno dell'azzeramento strutturale del deficit. L'azzeramento strutturale del deficit non è il deficit zero, è quello corretto per le variabili del ciclo, eccetera, eccetera. Però i numeri ufficiali con cui siamo alle prese con il governo attuale, che ha trovato la situazione che ha trovato, sono numeri che dicono che le entrate continueranno a crescere moltissimo, la spesa continuerà a crescere con un ritmo meno intenso, se volete, delle entrate, ma continuerà a crescere anch'essa. E di fronte a questo la domanda è: ma quali sono gli effetti sull'economia italiana se non quelli di ulteriore depressione? Ecco, io mi limito a farvi questa premessa dopo avervi ricordato cosa avverrà sul bollo auto, se le norme verranno poi approvate dal Parlamento e presentate nel testo che esce venerdì dal Consiglio dei Ministri, perché dobbiamo essere non prevenuti. Non ne faccio una questione pregiudiziale verso questo governo, però bisogna sapere che con queste cifre, con gli anni di fronte, per l'economia italiana la ripresa di occupati e di reddito, beh, è molto complicata se non si cambia marcia. Ed ecco perché anche quest'anno ascoltiamo il professor Mario Baldassarri, economista che è professore emerito alla Sapienza di Roma, che con il centro studi che presiede, che si chiama Economia Reale, lo trovate anche su internet, ha puntualmente ripresentato ieri la sua riflessione annuale, il suo rapporto annuale del Centro Economia Reale sui numeri della finanza pubblica italiana. Grazie di essere con noi, professore. Buonasera a lei, Giannino, e a chi ci ascolta. Allora, di fronte al quadro del DEF, lei che cosa dice? Ma lei ha già sintetizzato la prima parte del nostro rapporto, quella in cui facciamo i confronti tra gli ultimi tre DEF, l'andamento del debito pubblico. Ma nella seconda parte passiamo, come di consueto, alle previsioni per i prossimi anni. E da questo punto di vista abbiamo fatto una previsione tendenziale, cioè una base di riferimento che incorpora il quadro internazionale, il quadro europeo e i provvedimenti del governo fino alla fine di maggio, quindi tutto ciò che è stato deciso fino alla fine di maggio di quest'anno. E sulla base di questi dati, quello che emerge è un quadro di ripresa assolutamente fragile e insufficiente a fronteggiare la gravissima situazione economica e sociale delle famiglie e delle imprese, perché secondo le nostre proiezioni quest'anno la crescita sarà pari allo 0,3%, poi nel 2015 si collocherà attorno all'1%, ma più o meno rimane attorno all'1% fino al 2018, il che vuol dire che la disoccupazione, che quest'anno ha un picco massimo che è appena sopra il 13%, un pochino si ridurrà, ma nel 2018 sarà ancora oltre l'11%. I disoccupati quest'anno sono 3 milioni e mezzo, si ridurranno forse a 3 milioni, ma così via. Il deficit pubblico, lei ha già detto, si riduce un po', ma non si azzera mai, e il debito pubblico continua a crescere. Dai 2.100 miliardi di quest'anno cresce meno degli anni passati, ma continua a crescere e arriva a 2.000 e oltre 200 miliardi nel 2018. Quindi il rapporto tra debito e PIL non segue chiaramente quanto ci imporrebbe il fiscal compact. Si può essere d'accordo o meno, io non sono d'accordo con il fiscal compact, però il deficit che quest'anno sfiora il 134%, il debito, il rapporto al PIL, si riduce attorno al 130% nell'arco dei prossimi 4 anni. Questo è il quadro che emerge. E allora nasce subito una domanda: ma quale, poiché abbiamo la scadenza importante della legge finanziaria, la legge di stabilità, che il governo Renzi dovrà fare a settembre, meglio sarebbe se l'anticipasse a luglio, in modo che il Parlamento possa discuterla e a settembre-ottobre possa già essere approvata. Bene, su quella legge di stabilità, quali riforme strutturali, quali movimenti, spostamenti, tagli di spesa, tagli di tasse, rilancio degli investimenti devono essere incarnati in quella legge di stabilità per far sì che questa proiezione tendenziale di cui ho appena detto totalmente insufficiente possa essere notevolmente rafforzata e migliorata? Allora, adesso abbiamo 60 secondi di interruzione sull'informazione stradale, poi torniamo con il professor Baldassarri a vedere cosa si può cambiare realisticamente di questi numeri di finanza pubblica. la versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta a 13:47 primi 45 secondi. Siamo con il professor Mario Baldassarri. Ieri il suo centro studi economia reale ha presentato il rapporto annuale sui numeri della finanza pubblica. Abbiamo tentato di ricordarvi come le cifre ufficiali, quelle del DEF, del governo Renzi, dicano per i prossimi anni con una crescita di entrate ancora molto molto ampia, di più di 70 miliardi rispetto al 2013, negli anni a venire, una spesa che cresce non più tantissimo ma continua a crescere, l'azzeramento del deficit non c'è, il debito sale perché la componente di PIL nominale, cioè l'inflazione, resta bassissima, quella aiuterebbe come ovvio a diminuirlo perché farebbe crescere il denominatore. La componente di crescita reale, avete sentito nelle valutazioni di economia reale del professor Baldassarri, quest'anno la crescita attesa è solo più 0,3%, non più 0,8% come dice il governo. Da questo punto di vista devo ricordarvi, alcuni di voi sono scettici, credono che questi numeri dipendano dal pregiudizio politico. No, pensate che il primo trimestre di quest'anno, che ha avuto un PIL negativo meno 0,1% tendenziale, significa sul trimestre precedente, l'ultimo del 2013, e ha avuto su base annuale meno 0,5%, quindi sullo stesso trimestre del 2013, ecco, questo meno 0,1% nel tendenziale, cioè crescita nei tre trimestri successivi, già incorpora un effetto di trascinamento negativo del PIL di meno 0,2, quindi per fare il più 0,8 che il governo si prefigge, che Padoan ha confermato anche stamattina qua a Milano di non voler cambiare, dice ci sarà un rilancio già dal secondo trimestre, beh, ci manca un punto di PIL da meno 0,2, che è l'effetto di trascinamento del primo trimestre, per fare 1%, e il professor Baldassarri dice no, nei numeri io veramente vedo più 0,3%. Allora, siccome questa tendenza significherebbe anni e anni e anni, troppi anni per recuperare occupazione e reddito, realisticamente voi cosa proponete, professor? Come ha precisato lei, noi per ottenere questo 0,3% di crescita quest'anno abbiamo dovuto immaginare che nel secondo trimestre di quest'anno la crescita sia più 0,3 più 0,4. Se fosse questo rimbalzo nel secondo trimestre, nella media dell'anno riusciremmo a raggiungere il più 0,3%. E soprattutto le previsioni tendenziali che abbiamo illustrato prima indicano una cosa molto importante, cioè noi ritorneremmo allo stesso livello di reddito del 2007, prima della crisi, nel 2022. Nel 2022, e allo stesso livello di disoccupazione del 2007 nel 2023. Pazzesco. Cioè avremmo di fronte altri 7-8 anni per recuperare i livelli che avevamo nel 2007. Quindi da questo punto di vista ci siamo posti questo problema, cioè qual è una proposta di, anche per ampliare il dibattito, certo, approfondirlo prima di presentare la legge di stabilità. E noi proponiamo di spostare 30-35 miliardi di risorse dentro il bilancio pubblico, indicando con precisione dove andarle a prendere e dove metterle. Dove andarle a prendere significa in realtà rendere operativa quella spending review che va avanti da anni e anni e anni. L'ultima è la stima del commissario alla spending review Carlo Cottarelli, che ha indicato attorno appunto a 30-35 miliardi la possibilità di tagliare le spese negli acquisti di beni e servizi, nei trasferimenti alle imprese chiamati fondi perduti e quant'altro, che sono poste dove si sono nascosti sprechi, malversazioni, ruberie, ogni riferimento alle puntine di iceberg che sono emerse anche in questi giorni, vedi Respo, vedi il Mose, ma sono punte di iceberg, in realtà sottostante ci sono questi 30-35 miliardi ogni anno di spesa pubblica, forse di più, la Corte dei Conti parla di 50 miliardi. Noi abbiamo immaginato quindi di tagliare queste specifiche voci di spesa nel corso degli anni, ovviamente, non con la bacchetta magica, e queste risorse destinarle a maggiori investimenti infrastrutturali, perché anche nel DEF di Renzi gli investimenti infrastrutturali risultano in riduzione. Scendono, nei prossimi anni. Quindi mettere almeno tra i 5 e gli 8 miliardi di maggiori investimenti infrastrutturali. E poi tagliare l'IRPEF e l'IRAP, l'IRPEF alle famiglie con meno 15 miliardi, che significherebbe di fatto, la nostra proposta è quella di raddoppiare le detrazioni per carichi familiari, per ottenere uno sgravio fiscale alle famiglie, ma anche un'equità orizzontale in base al numero dei componenti della famiglia, e 15 miliardi circa di taglio dell'IRAP alle imprese, che vuol dire in gran parte azzerare l'IRAP per tutte le imprese che stanno sotto a 220, che è un po' la grande platea delle imprese italiane, certo. Nostro giorno. Ecco, se simuliamo una operazione di questo tipo, il risultato ovviamente da prendere sempre con le solite cautele, certo. Sono risultati di modelli econometrici che però sono utili per dare un quadro di coerenza, un quadro di riferimento. Allora cosa avverrebbe? Avverrebbe che quel recupero del PIL e della disoccupazione del 2007, invece che aspettare il 2022-2023, potremmo raggiungerlo tra il 2017 e il 2018, cioè 5 anni prima, perché la crescita andrebbe dopo lo 0,3% di quest'anno, sul quale c'è poco da fare francamente ormai, anche perché la legge di stabilità presentata a settembre avrà effetto non cambia nulla, quindi non cambia il 2014. Io infatti ho sperato che ci fosse spazio per un intervento subito, però Renzi è contrario. No, ma io sono d'accordo con Renzi su questo, cioè l'importante è fare le cose bene e strutturali, non immediate e magari un pochino farraginose. Allora, se si facesse una manovra vera di questo tipo, tenga conto che muovere 30-35 miliardi nel bilancio pubblico significano 2 punti di PIL, sì. Non è che stiamo parlando di cose marziane o stratosferiche. L'effetto sarebbe che quella crescita asfittica che dal 2015 in poi si attesterebbe attorno all'1%, in questo caso si attesterebbe attorno al 2%. Sembra una piccola differenza. Altro che piccola differenza. Alla fine del periodo fa una differenza enorme, tanto che nel 2018 avremmo una disoccupazione poco superiore al 7%, dal 13%, il 13 di oggi, ed è esattamente quello che avevamo nel 2007. E da questo punto di vista il miglior andamento dell'economia reale sul fronte del reddito e dell'occupazione immediatamente dà effetti altrettanto positivi sul deficit, perché il deficit pubblico si azzererebbe nel 2018. Nonché il debito, che a quel punto con la maggior crescita della del denominatore. Il rapporto debito-PIL scenderebbe verso il 120% dal 134% di quest'anno. Allora io la fermo un secondo, perché il problema, come avrete capito, è quello di vedere se nella legge di stabilità c'è davvero un intervento intorno ai 2 punti di PIL. Se ci sarà solo un intervento intorno a 1 punto di PIL, cioè metà dei tagli Cottarelli, pensate che è già tutto riassorbito dall'estensione del bonus 80 euro per renderlo strutturale e ampliarlo, dagli ammortizzatori sociali non ci sarebbe spazio per gli sgravi, senza dei quali non si riparte prima, come dice il professor Baldassarri. Giuseppe da Belluno, in 10 secondi che ti aspetti, più tasse o meno? Molte più tasse, Oscar Giannino, arriveremo quest'anno a meno 1. Speriamo di no, che non ci sia meno 0,1, anch'io però dico più 0,3, più 0,4, per il momento non vedo altro nei numeri. Continuate su Radio 24, grazie al professor Baldassarri, appuntamento come domani.